Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammā sambuddhassa. Homage to the Buddha, the blessed, noble, and fully self-enlightened one. Omaggio al Buddha, al beato, al nobile e al pienamente illuminato. So, as we come now to the end of our course, we don't finish our aditan, our resolute resolution, till breakfast. Quindi, anche se ci stiamo avvicinando alla fine del nostro corso, però non rinunciamo al nostro, alla nostra risoluzione, il nostro impegno fino a colazione, al nostro aditan. I thought we might just contemplate the paramis, the perfections. Quindi possiamo contemplare le paramis, le perfezioni. And we'll try and do a few of them. We may not be able to do all of them, but at least it allows us just to see them as points of reflections in our lives. Quindi ne potremmo fare alcune, forse non tutte, ma possiamo vederle come dei punti di, su cui riflettere nella nostra vita. So I'll read them out because this is one list I never learnt off by heart. Quindi le dovrò leggere, perché questa è una di quelle liste che non ho mai imparato a memoria. Giving, generosity. Quindi la prima è il dare, la generosità. Morality. La moralità. Renunciation. La rinuncia. Wisdom, saggezza, energy, energia, patience, pazienza, truthfulness, il dire il vero, resolution, decisione, risoluzione, loving kindness, gentilezza amorevole, and equanimity. Ed equanimità. I'd like to start with generosity because that was always the beginning of the Buddha's own talks. Mi piacerebbe cominciare con la generosità perché questo era sempre l'inizio dei discorsi del Buddha. Whenever he began teaching somebody who didn't know his doctrine, his teachings, he would always begin with generosity. Ogni volta che insegnava qualcuno che non conosceva la sua dottrina, lui cominciava sempre con la generosità. Because, as he pointed out, everybody can be generous. Perché, come lui soleva dire, tutti possono essere generosi. Even thieves can be generous. Anche i ladri possono essere generosi. The quality of generosity is normally in two ways. We are generous with our wealth or generous with our time. Quindi la generosità può essere di due tipi. Possiamo essere generosi della nostra ricchezza e possiamo essere generosi con il nostro tempo. And some people are good at offering their wealth but don't like to give you much time. Some people like to give you time but they don't want to give you a penny. And some people don't like to give you either, and some people like to give you both. Sono persone che sono molto generosi per la loro ricchezza ma non offrono neanche un po' del loro tempo, o persone che offrono molto del loro tempo ma non ti danno neanche un quattrino. Persone che offrono, che non offrono né il tempo né la ricchezza, e persone che invece offrono sia il tempo che la ricchezza. When we develop generosity, we must also link it with the perfection of renunciation. Quindi, quando sviluppiamo la generosità, noi dobbiamo collegarla con la perfezione della rinuncia. And if we have problems with raising generosity, then we ought to contemplate the quality of gratitude. Quindi se abbiamo difficoltà a far sorgere generosità, allora dovremmo contemplare la qualità della gratitudine. So, for instance, our parents. Prendiamo per esempio i nostri genitori. Most of us hold grudges and grumbles about our parents. Molti di noi hanno un po' delle rivendicazioni, come dire, dei sono il broncio, insomma, rispetto ai loro genitori. Parents can never be good enough. I genitori non possono mai essere buoni abbastanza. And one reason is that they're not fully enlightened beings. loro devotivi che non sono degli esseri pienamente illuminati. But there's also another very good reason that even if they were fully enlightened beings, they still wouldn't be good enough. E poi c'è un'altra ragione, che anche se fossero degli esseri perfettamente illuminati, continuerebbero a non essere abbastanza buoni. Because the child is full of greed, aversion and delusion. Perché il bambino è pieno di avidità, avversione e illusione. I'm thinking of a situation with my nephew. He used to take a very long time eating his meals. Mi viene in mente una situazione che si fece a mio nipote, che ci metteva moltissimo tempo a mangiare un pasto. And almost to the point of being antisocial. Fino al punto di diventare asociale. So his parents would first urge him and then finally force him to eat quicker. Quindi i suoi genitori prima lo spingevano e poi lo costrinsero a mangiare più velocemente. And he remembers this with a grudge. E lui si ricorda questo con un risentimento. But I pointed out to him that maybe it was good social training, because if he did this with his friends in restaurants, he might find himself left alone. Però io gli ho spiegato che questo era un buon addestramento sociale, perché se lui si ritrovava a comportarsi così con i suoi amici al ristorante, sarebbe stato lasciato solo. So even if we have had parents who have been thoroughly evil, neanche se abbiamo avuto dei genitori che sono stati assolutamente malvagi, at least we can thank them for the gift of life. Almeno possiamo ringraziarli per il dono della vita. Because again, from the Buddhist point of view, this life form is extraordinarily precious. Perché da un punto di vista buddista questa forma di vita è assolutamente preziosa. Because here we have this combination of joy and woe and the intelligence to find our way out of suffering, dukkha. Here we have this combination. La combinazione di gioia e dolore è un modo per And an intelligence to work our way out of the system. Per trovare una via d'uscita da questo sistema. Yes. So it's better than being born an elephant or a dog. È meglio che essere nati come elefante o come cane. So this quality of thinking about our parents and thinking of the gratitude that we owe them will end up like the Buddha, where he says that even if you carried both parents on your shoulders the whole of your life, you would not have repaid your debt to them. Quindi questo pensiero di gratitudine nei confronti dei genitori può essere visto come l'esempio ciò che diceva il Buddha, che noi potremmo caricare entrambi i nostri genitori sulle spalle e ancora non avremmo estinto, diciamo, il debito nei loro confronti. E averli portati in giro per tutta la vita. Sì. E averli portati in giro per tutta la vita. Sì. And then we can think of our teachers, in schools, without whom we simply wouldn't have learnt what we know. Poi possiamo pensare ai nostri insegnanti a scuola, senza i quali non avremmo imparato tutto ciò che sappiamo. The doctors who treated us. I medici che ci hanno curato. Often in a welfare state where everything is given to us free, inverted commas, we lose that sense of gratitude for the ability and skills of other people. Spesso in uno stato di welfare, uno stato sociale come il nostro, dove tutto ci è dato, tra virgolette, gratis, ci dimentichiamo di essere grati per l'abilità delle persone che ci lavorano, insomma, in questo stato. And then of course there are friends who we can be grateful for just being friends. Poi ovviamente ci sono gli amici verso i quali possiamo essere grati semplicemente per il fatto di essere nostri amici. And you can even extend this sense of gratitude to the earth and the trees and all that. E si può estendere questo senso di gratitudine alla terra, agli alberi e via di seguito. Even the very air we breathe. Persino l'aria che respiriamo. So this sense of gratitude is humbling. Quindi questo senso di gratitudine ci rende umili. It reminds us that we are very dependent on the earth, the world, other people for our existence. E ci ricorda che noi dipendiamo da dal mondo, dalle persone, per la nostra stessa esistenza. And therefore there arises in us that desire to in some way repay or manifest similar qualities of generosity to this world and other people. Quindi sorge in noi spontaneo questo desiderio in qualche modo di ripagare questa questa generosità al mondo e alle altre persone. Hmm. Now, when we give of our wealth and time, we are also giving up what we might have done with our wealth and time. Quindi quando noi offriamo la nostra ricchezza e il nostro tempo, in un certo senso stiamo anche rinunciando a ciò che avremmo fatto con la nostra ricchezza e il nostro tempo. Hmm. The money that we give to good causes might have been used for a holiday in Thailand. I soldi che noi diamo per una giusta causa l'avremmo potuti spendere su, per esempio, una vacanza in Thailandia. The time that we have spent helping other people might have been also spent lying in a warm bath. Il tempo che noi dedichiamo ad aiutare un'altra persona potrebbe essere speso, per esempio, a farci un bel bagno caldo. Which is my own peculiar indulgence. Che la mia, come dire, il mio piacere personale, la mia indulgenza personale. So there is also that quality that when we give something, we're giving something up. Quindi c'è sempre questa idea che quando noi diamo qualcosa stiamo anche rinunciando a qualcosa. And this of course means to let go of a certain degree of selfishness. E quindi questo significa rinunciare, cioè, a un certo grado di egoismo. Mm. And what is selfishness but attachment? E cos'altro è l'egoismo se non l'attaccamento? Mm. And remember that although we sit in meditation here and we do our walking in order to understand this whole process, these insights have to be taken out into daily life. Quindi ricordate che se anche noi sediamo qui per capire cosa succede, come funzioni questo processo, quello che noi capiamo dobbiamo anche poi portarlo fuori nella vita quotidiana. Mm. It won't work at all spiritually if we here see the role of desire and attachment and then go out in the world and accumulate as much as we can. Quindi non ha nessun senso che noi qui vediamo il ruolo del desiderio dell'attaccamento e poi andiamo fuori nel mondo e accumuliamo tutto quello che possiamo. So this connection between gratitude, generosity and renunciation is good to contemplate. Quindi è bene contemplare questo collegamento tra la generosità e la gratitudine e la rinuncia. So now, how can we make our generosity pure? Quindi come possiamo rendere pura la nostra generosità? The fact of the matter is that when we give something for a good cause, or when we do something for the benefit of somebody else, we feel good. Quindi sta di fatto che quando noi diamo qualcosa per una giusta causa o facciamo qualcosa per una giusta causa, questo ci fa sentire bene. And there is a great danger here in becoming what in English we call a do-gooder. E quindi qui c'è un pericolo di diventare quello che in inglese si chiama un fare bene, cioè una persona che fa bene. These are the sorts of people who want to do you the good they want to do you. Questo sono il tipo di persone che vogliono fare il bene che loro vogliono per te, che loro ritengono sia il bene per te. So for instance, you might visit a friend who is sick and take them some grapes or some soup. Per esempio potete andare a visitare un amico che sta male e gli portate dell'uva o della minestra. But when you offer this to them, they're so sick that really they can't eat anything. Ma quando poi glielo offrite, loro sono talmente male che non riescono a mangiare nulla. And you say, oh, don't worry, that's quite all right. E voi dite, ah, no, non ti preoccupare, non fa niente. I'll eat them myself. Me le mangio io. But then your friend says, but you could do me a favor. Però poi il tuo amico ti dice, ma però potresti farmi un favore. Could you clean my toilet? Potresti lavarmi il bagno. And then, of course, you take a big swallow. And sort of say, well, yes. Evidentemente, sì. So you can always tell how impure your generosity has been when it's either not accepted or when you find that they're asking you to do something else than you were prepared to do. Quindi se conoscerete il grado della purità, diciamo, della purezza della vostra generosità, quando o viene rifiutato oppure ritrovate a fare qualcosa che non era esattamente quello che voi eravate preparati a fare. That is also the should we say sometimes being generous is really just a business deal. A volte essere generosi è solo una questione di affari, di business. So for instance your friend asks you to help him redecorate the house. Per esempio, un vostro amico vi chiede di dipingere la casa. And when it's time for you to decorate yours, you expect them to come and help you. E poi quando tocca a voi dipingere casa vostra, voi vi aspettate che l'amico venga ad aiutare voi. When they tell you that they're unable to do so, that is the end of your friendship. E quando vi dicono che non possono farlo, quella è la fine dell'amicizia. There are also generosities which are much more to do with, shall we say, social contracts. E poi c'è una serie di tipi di generosità che sono legate a dei contratti sociali. Christmas and birthdays are such occasions. Per esempio il Natale o i compleanni sono occasioni di questo tipo. Yeah, and we shouldn't become cynical about these. E non dovremmo diventare cinici riguardo a questo. No, this is just an occasion where we express our friendship and our ties with family and friends. Quindi è solo un momento in cui noi esprimiamo la nostra, il nostro legame, la nostra amicizia con famiglia e amici. Yeah, so you send family perfumes and cheeses and a bit of wine, and they send you perfumes, cheeses and a bit of wine. Poi mandate alla famiglia un po' di profumo, formaggi e un po' di vino, e loro vi mandano profumi, formaggi. And that's fine. E va bene. Yeah, there's nothing, we mustn't expect pure generosity from people who are giving to us, or whenever we want to give. Sometimes it is just a social contract. Quindi non dobbiamo aspettarci una pura generosità quando le persone ci danno, oppure quando noi diamo loro. A volte è proprio un contratto sociale. And as I say, some people get rather cynical about these things, but I see no reason for that. Alcune persone diventano molto cinici rispetto a questo. Si dice cinici, vero? Sì. Ma io non. Ma io invece non lo ritengo così. I think that even though you know it's a business contract or a social contract, that even so you can develop the heart of pure generosity. Io penso che anche se voi sapete che è un contratto sociale, però ciononostante potete sviluppare un cuore di generosità. So that if your gift is not accepted or not returned, there's no pain for you. Quindi se il vostro regalo non è accettato oppure non è ricambiato, allora non c'è nessuna sofferenza in voi. So how do we develop just that quality of pure giving? Quindi come sviluppiamo questa qualità del dare puro? Well, it won't come as a surprise to you that one has to be aware of one's intentions. Quindi non vi giungerà come una sorpresa il fatto che uno deve essere consapevole delle proprie intenzioni. So for instance, if you were giving a donation to a good cause, you would first of all decide how much you wish to give. Quindi per esempio se state facendo una donazione per una giusta causa, innanzitutto decidete quanto dare. And I think we can say in general, when we're being generous, it hurts a little. Io direi che in generale quando decidiamo di dare un pochino fa male. Because that is the renunciation. Perché lì entra in gioco la rinuncia. Yeah. And then when you, before you actually give, you sit quietly with your intention. E prima di effettivamente dare, voi vi sedete tranquillamente con la vostra intenzione. And you may say, this is for the benefit of this person, and I expect no return. I want no return. E quindi voi pensate, questo è per il beneficio di questa persona, e io non voglio nessun ritorno, non mi aspetto nessun ritorno. Or you could say, I'm giving it to this person, but it's for the benefit of all beings, and I expect no return. oppure potete dire io la do a questa persona ed è per il beneficio di tutti gli esseri, ma io non mi aspetto nulla in cambio. When the Buddha's stepmother came to offer him a robe, Prajapati, I think her name was, Prajapati. Quando la madre adottiva del Buddha venne per offrirgli un vestito, he said to her, it would be better if you'd offered it to the Sangha. Lui le disse, sarebbe stato meglio se tu l'avessi offerto al Sangha. To the community of monks. Alla comunità dei monaci. But she again offered it to him. Ma lei nuovamente lo offrì a lui. And so he said again, it's better for you if you offer it to the Sangha. E lui nuovamente le disse, ma è meglio per te se lo offri al Sangha. And after he said that three times, he gave up. Dopo averlo detto tre volte, ci rinunciò. And he received the robe gratefully from his stepmother. E quindi ricevette questo abito con gratitudine dalla sua madre adottiva. Now why did he do that, you see? Ma perché l'ha fatto? Because he was teaching his grandmother, he's teaching his stepmother to give without attachment. Allora perché l'ha fatto? Perché stava insegnando a questa sua madre adottiva a dare senza attaccamento. She obviously wanted to give it to him because he had been her stepson. Lei ovviamente voleva darlo proprio a lui perché era stato suo figlio adottivo. And by giving it to the Sangha, she would have begun to break up that special attachment or specific attachment that she had for the Buddha. Quindi dandolo al Sangha avrebbe rotto questo attaccamento particolare, speciale che aveva con il Buddha. So that her generosity eventually might become universal. E quindi la sua generosità avrebbe potuto diventare universale. There are other reasons. In the East, of course, or should we say born Buddhists will give robes and presents to monks who are considered to be highly developed. Quindi c'è anche una ragione culturale, perché nell'est, oppure comunque per i monaci i buddhisti che sono nati buddhisti, no, c'è questa abitudine di donare gli abiti a quei monaci che pare abbiano raggiunto qualche livello di illuminazione. And they are doing it, of course, because they believe they will get more merit. E quindi loro lo fanno perché ritengono così di ottenere maggiori meriti. And merit is unfortunately conceived as a sort of bank account. E i meriti sono un po' considerati una specie di conto in banca. Which upon death manifests as being born in a beautiful realm. Che al momento della morte si manifesta permettendo una nascita in un regno superiore, in un buon regno. Is that realm? Yeah. There was an occasion I was told of which manifests this, which shows this clearly. C'è stato un'occasione che dimostra chiaramente questo fatto. There was a rather rich Chinese merchant who went to find Ajahn Chah from Bangkok. C'era un mercante piuttosto facoltoso che è andato a trovare Ajahn Chah a Bangkok. And when he got to the monastery, he laid out all the food, these beautiful Thai food. E quando giunse al monastero, ha disposto, insomma, tutto il cibo, questo buonissimo cibo thailandese. When he was told that Ajahn Chah wasn't there, e quando gli fu detto che Ajahn Chah non c'era, he packed up all the food and went to look for somebody else. Allora si riprende tutto questo cibo e andò a cercare qualcun altro. Which would have been very disappointing for all the monks and nuns. Avrebbe dato un grande disappunto, avrebbe deluso tutti i monaci e le monache. So, when we want to make a gift, even if it's of time, that we're going to spend some time helping somebody, we sit quietly with ourselves and make sure that our intention is to do it for their benefit or the benefit of all being without hope of return. Quindi quando decidiamo di donare qualcosa che può essere anche solo del tempo da dedicare a qualcun altro, allora dobbiamo sederci lì con l'intenzione per essere sicuri che lo stiamo facendo per il beneficio della persona o di tutti gli esseri senza aspettarci nulla in cambio. And then one does it. E poi uno lo fa. So this intention now is your new conditioning. Quindi questa intenzione è adesso il vostro nuovo condizionamento. Or it's reinforcing the conditioning of pure giving. O sta rinforzando il condizionamento del donare in modo puro. Now, after you've done that, you may hear a little voice. Allora, dopo che l'avete fatto, potreste sentire una piccola voce. You are truly a wonderful human being. Sei veramente una bellissima persona umana. Or you may hear too much, take some back. Oppure potreste sentire troppo, togliene un po'. But this is the old conditioning. Ma questo è il vecchio condizionamento. This is not the conditioning that we have reinforced. Non è il condizionamento che noi abbiamo rinforzato. So we should note it as thinking. E quindi lo dobbiamo notare come pensare. If we feel guilty about that, we should note guilty. Se ci sentiamo in colpa, dovremmo notare senso di colpa. If we feel averse towards ourselves, thinking ourselves to be useless, we should note judging. Se noi abbiamo un'avversione verso noi stessi, sentendoci delle persone senza speranza, dovremmo notare giudicare. And we should remember that this is old conditioning, not me, not mine, and it is dying away. Quindi dobbiamo ricordarci che questo è un vecchio condizionamento, non io, non mio, e sta morendo, cioè si sta dissolvendo. Non io, non mio. Il vecchio condizionamento. This judging mind is often a great problem for us. Questa mente giudicante spesso è un grosso problema per noi. Especially the one I'm thinking of, the one that tells us that we're no good, we're useless. Soprattutto quella voce che ci dice che non valiamo niente, che non. Yeah, we're useless. Non valiamo niente. Yeah. Cioè siamo inutili. Inutili, useless. Things like that. Cose di quel genere. So, for instance, you may do something which, just by an old habit, which you then feel a little embarrassed about. Per esempio, fate qualcosa così in seguito a una vecchia abitudine per la quale poi vi sentite imbarazzati. This inner judging begins up, you know, how could you do a thing like that? That's terrible, you know. Comincia questo giudizio interno, no? Come hai potuto fare una cosa del genere? È terribile. Yeah, you're bad. Sei cattivo. And then you think, well, I'll put it right, so you do something to put the situation right. Allora poi vi dite, beh, io adesso sistemo la situazione, me la aggiusto in qualche modo, e fate qualcosa per aggiustare quella situazione. So, for instance, you've said something silly or something slightly cruel to somebody. Per esempio, dite una cosa sciocca, una cosa leggermente crudele a qualcuno. And you feel upset about it, you feel stupid about it. Vi sentite un po', come dire, disturbati da questa cosa, un po' stupidi. So you ring them up finally and you say, listen, I'm sorry about that. E allora poi date un colpo di telefono e gli dite, senti, scusa per quello che ho fatto, ho detto. And then this little voice says, that's very good, you've done well. Allora c'è questa voce che dice, va bene, hai fatto bene. But you're still useless. Ma sei ancora inutile. You're still bad and horrible. Continui a essere cattivo, orribile. Yeah. So remember that this attitude of self-hatred is not going to be undermined by satisfying its demands. Quindi questo atteggiamento di auto-odio, diciamo, non sarà no, will not be assuaged or will not be assuaged or undermined by obeying its commands. Sì, obbedendo ai suoi comandi. You can never be good enough. Non sarete mai bravi abbastanza. Because often this sense of who we are is some sort of big ideal. Perché questo senso di chi noi siamo a volte è un grande ideale. And that's and when we never live up to our ideal about ourselves, that's when we feel this shame. E quando noi non riusciamo mai a essere all'altezza con questo grande ideale che abbiamo di noi stessi, che nasce poi la vergogna. So one notes that and then, returns to always being aware of one's intentions and trying to work with always the best intention. Quindi uno lo nota questo, poi torna ad osservare le proprie intenzioni e essere consapevole delle, quindi delle intenzioni migliori, sviluppare quelle migliori. Yeah, and knowing that our conditioning will always make us trip up, will always do something. Sapendo che il nostro condizionamento ci farà sempre in qualche modo sbagliare. So there's a certain, you know, a sense of humility about that. Quindi c'è un senso di umiltà rispetto a questo. So here we have this quality of generosity being generated by contemplating gratitude, what we owe to others. Quindi c'è questo senso di questa qualità della generosità che si sviluppa grazie a un senso di gratitudine per quello che riceviamo dagli altri. Mm. And then we can develop this sense of generosity by making sure that our intention is pure. Noi possiamo sviluppare questo senso di generosità assicurandoci che le nostre intenzioni siano pure. Which means you're doing it for no return, that's all. Che significa che voi lo state facendo senza aspettarvi nulla in cambio. Tutto qui. Now, we said that when we give something, we are of course giving something up. Allora, abbiamo detto che quando diamo qualcosa, naturalmente stiamo rinunciando a qualcosa. And this quality of renunciation is also very important in our spiritual lives. E questa qualità della rinuncia è anche molto importante nella nostra vita spirituale. When the Buddha left home and... if we remember the scene, he peeped into the room where he saw his wife lying with his newly born son. Quando il Buddha lasciò la sua casa, se vi ricordate la scena prima di andar via, lui sbirciò nella stanza e vide sua moglie con il figlio appena nato. And such was his, what can we say, existential crisis. La sua crisi esistenziale era tale. That it drove him to leave them in search of an answer. Che l'ha portato a lasciarli per cercare una risposta. Mm. Such was his desire to find an end to the problems of life and death that he had experienced. Tale era il suo bisogno di scoprire i motivi del problema, cioè le cause. Il problema della vita e della morte. Mm. And when he went with his horse Kantaka and his servant Channa to the river Anoma, he let go of all his princely clothes and cut off his hair. E quindi quando andò al fiume con il suo cavallo Kantaka e il suo servo, assistente Channa. Lasciò tutti gli abiti e si tagliò i capelli a zero. And he crossed the river. E attraversò il fiume. So we say cross the Rubicon, eh? Diciamo attraverso il Rubicon. It's a big decision. Una grande decisione. It's from one land to another, you see. E da una terra all'altra. Mm. So he would not have renounced that did he not think that this renunciation would lead him to better things. Lui non avrebbe rinunciato a questo se non avesse pensato che questa rinuncia l'avrebbe portato a delle cose migliori. So that nobody, you don't renounce something unless you think you're going to, unless you think it's worth it in the future. Quindi non rinuncerete a qualcosa se non siete sicuri che ne valga la pena per qualcosa nel futuro. Mm. It was a gamble on his part. He didn't know what was waiting for him. But such was his position as he was that it was worth the gamble. Quindi era un rischio da parte sua, un azzardo, diciamo, perché era tale la sua condizione che comunque questo ha reso possibile il correre questo rischio. So, what was his situation at home? Quindi qual era la sua situazione a casa? Well, there were first of all, there's that story which tells us how he came into contact with the truth of birth, old age and death. Birth, sickness, old age and death. Beh, innanzitutto c'è quella storia che ci dice come lui è entrato in contatto con questo problema della nascita, della malattia, della vecchiaia e della morte. Mm. And if you think about it, this can come strongly on a person at any age, really. Se ci pensate, questo può effettivamente venire come un colpo molto forte per una persona a qualsiasi età. But it often happens in their 20s. Di solito però succede quando uno ha circa 20 anni, tra i 20 e i 30 anni. Mm. And so by the time he gets to the age of 29, this has really become a psychological existential problem for him. Quindi quando lui arriva all'età di 29 anni, questo è diventato un problema esistenziale per lui. But there's also something else which is driving his renunciation. Ma c'è ancora qualcos'altro che in qualche modo spinge alla sua rinuncia. And I think we can say this was fairly true for all the people who left the household life to become ascetics. E questo era vero per tutti coloro che lasciavano la casa, la propria casa, per diventare degli asceti. And it was basically the vanity, the emptiness of life. Ed era la vanità. Della vita, emptiness. Il senso di vuoto nella vita. If all there is to life is work, you know, life is work and it's hard and then you die. Se la vita è solo lavoro, no? Tutto quello che si fa è lavorare e poi morire. Mm. And of course in his day they would have strongly believed the idea that this would have again happened life after life after life. A quei tempi si pensava che questo comunque sarebbe successo una vita dopo l'altra ancora. Mm. So there is that fundamental monotony about life, of every year having to plow the land, put in the seed, reap the crop, and so on. Quindi c'è questo senso di monotonia della vita, no? Di questa ripetitività, tutti gli anni dover arare il suolo, mettere il seme, poi fare il raccolto, e via di seguito. Mm. And I would say that most people in work today feel that the boredom that comes with the repetitiveness of the work they do. Penso che molte persone, anche oggigiorno, sentano questa ripetitività del lavoro, no? Questa noia del fare la stessa cosa giorno dopo giorno. Mm. And if there's no reason for it beyond itself, then of course there is that sense of uselessness about it. E quindi se non c'è una ragione al di là del lavoro stesso, allora uno ha questo senso di inutilità. Mm. When I was still at school, I was able to get some work during the holiday periods. Quando ero ancora a scuola, sono riuscito ad avere dei piccoli lavori durante il periodo delle vacanze. And one of the jobs I had was in a cake factory. Uno dei lavori che avevo era in una fabbrica di dolci, di torte. Mm. And they put me on a production line. E mi hanno messo su una linea di produzione. Which were all yes, which were all women and just me. Ed erano tutte donne e poi c'ero io. And the line of cakes came whizzing round the corner, past all the women, past me, and then went up there somewhere where somebody put them into boxes. E quindi queste torte passavano velocemente, prima davanti a tutte le donne, poi davanti a me, e poi sparivano da qualche parte, più in giù, dove venivano poi messe nelle scatole. My job was to put the cherry on top of the cake. No. Il mio lavoro era di mettere la ciliegina sotto la torta. The women were very sympathetic. Le donne erano molto comprensive. Because of course I kept missing this damn cake. Naturalmente continuavo a mancare il bersaglio. So at the time of course, the first day or so, it was something different from the intellectual life of school, and so there was a great relief about it. How simple. All'inizio c'era questa sorta di sollievo, di una sessione riposante rispetto alla vita scolastica che aveva lasciato, no? Era tutto così semplice. Mm. And of course at the end of the week, unlike school, I get money. E poi, a differenza della scuola, alla fine della settimana ho anche dei soldi. But by the end of the second day, if not the beginning of the third, there was growing in me a very fierce sense of boredom. Alla fine del secondo giorno, l'inizio del terzo, stava crescendo dentro di me questo feroce senso di noia. And this was very overcoming until the foreman gave me another job. E questo è diventato sempre più invadente fino a quando poi il capo officina, diciamo, mi ha dato un altro lavoro. By which time, of course, all the women had despaired of my ability to put cherries on cakes. Per quel tempo, a quel punto, le donne ormai avevano rinunciato a insegnarmi a mettere la in centro la torta. Now, of course, I see it as a great lost opportunity. Adesso, ovviamente, io la vedo come un'occasione persa. Because right there and then, if I had been brought up at least, you know, in Buddhist meditation, in Buddhist practice, I would have seen it as an opportunity to develop concentration and overcome boredom. Perché se io fossi cresciuto in un ambiente buddista, l'avrei visto come un'occasione per sviluppare la mia concentrazione e osservare la noia. So, as soon as there is a spiritual reason for life, everything takes on a meaning. Quindi appena c'è a spiritual meaning to life. Se c'è un significato spirituale alla vita, poi tutto ciò che si fa ha un significato diverso. Because everything that comes to you in life is an opportunity for growth. Perché tutto ciò che ti arriva dalla vita è un'occasione per la crescita. Even the most terrible things that happen to us. Anche le cose più tremende che ci capitano. So now this sense of renunciation, this giving up of things, comes about because of a sense of, I'm trying to think of the English word, sorry. It's when you get fed up of something, when you've had enough of something. Gosh, it's gone right out of my head. No, not boredom. No. Yeah, it's a sort of disenchantment. When you become disenchanted with it, that's when renunciation is easy. Quindi quando uno diventa disincantato poi con qualcosa, è quel punto che la rinuncia diventa poi facile. Facile. If you think, for instance, of yourself as a child. Pensate a voi stessi come a quando eravate bambini. Do you ever remember suffering losing your rattles and squeaky toys? Vi ricordate il momento in cui avete dovuto rinunciare ai vostri giocattolini, ai sonagini, ecco, oppure ai vostri giocattoli che fanno No, because something better came. No, perché qualcosa di meglio è arrivato. Yeah, more exciting toys. Dei giocattoli più eccitanti. And do you ever remember suffering losing those toys when you became a teenager? Avete mai, cioè, vi ricordate di aver sofferto l'abbandono di quei giocattoli quando siete diventati dei teenager, degli adolescenti? Because the teenager has different interests and there comes even more wonderful toys. Perché i teenagers hanno degli altri interessi e arrivano dei giocattoli ancora più belli. And this, I think, continues to happen for us till maybe as late as 40. E questo continua a capitare fino, forse addirittura fino ai 40 anni. Unfortunately, after 40, there doesn't seem to be anything better coming. Fortunatamente, dopo i 40, sembra che non ci sia nulla di più bello che deve arrivare. In fact, things look as though they're going to positively get worse. Le cose poi sembra che quasi decisamente peggioreranno. And then we get that hanging on to what we have. E allora ecco che arriva quell'aggrapparsi a ciò che abbiamo. Not only our friends and and the objects we own, but of course this body to keep it as young as we can. Naturalmente non solo gli amici o ciò che possediamo, ma anche il nostro corpo, e cerchiamo di mantenerlo più giovane possibile. So life itself will teach us to renounce whether we like it or not. Quindi la vita stessa che ci insegnerà a rinunciare, che ci piaccia o no. So we may as well make it into a spiritual exercise. Tanto vale che la trasformiamo in un esercizio spirituale. So when it comes to the body to accept that it is growing old and that there's nothing much I can do about it. Quindi per quanto riguarda il corpo si tratta di accettare il fatto che sta invecchiando e non c'è molto che io possa fare. And that operations and injections only delay the obvious. E che le operazioni, interventi chirurgici e le iniezioni non fanno che rimandare questo processo. The obvious. È l'ovvio. And to grow old graciously is our aim. E quindi invecchiare con grazia è il nostro scopo, il nostro obiettivo. So this renunciation comes also at a time when we become disenchanted with the way things are. Quindi questa rinuncia viene anche nel momento in cui siamo disincantati rispetto alle cose come sono. The word that I'm really trying to translate is a word called nibbida. La parola che sta cercando di tradurre è la parola nibbida. It's a sort of growing disinterest. È come un disinteresse che cresce. And that's not to be confused with boredom. E non è da essere confuso con la noia. It's a point where you're doing something which no longer makes sense to you. È quando uno fa qualcosa che non ha più un senso. And it doesn't come back as a desire. E non ritorna come desiderio. When we're bored with something, it means we've had enough of it for the time being. Quando ci annoiamo con qualcosa, vuol dire che ne abbiamo avuto abbastanza per il momento. And then the old desire resurrects. E poi il nuovo desiderio risuscita. But this feeling of disenchantment and of disinterest is actually a spiritual quality. Ma questa sensazione di disincanto, di disinteresse, effettivamente ha una qualità spirituale. And it leads to a natural renunciation. E porta a una rinuncia naturale. I'm thinking of a person, I think I've mentioned this in an earlier speech, of somebody who came to our meditation center in Birmingham. Sto pensando a una persona di cui posso già parlato precedentemente che è venuta al nostro centro di meditazione a Birmingham. And even after that one sitting he was unable to listen to heavy rock. E anche dopo una sola seduta poi non è più riuscito a ascoltare il rock duro. It was too duro. Era troppo duro. It was just too heavy. Era troppo duro. So even there was a natural renunciation, you see. E anche lì c'era questa rinuncia naturale. But of course, renunciation can also be an active decision on our part. Ma la rinuncia può anche essere una decisione attiva da parte nostra. And the reason why we might renounce something is to see our attachment. Il motivo per cui noi rinunciamo a qualcosa è per vedere il nostro attaccamento. And to let go of an obsession, an addiction. E quindi lasciare andare un'ossessione, una dipendenza. And this is of course where our Vipassana meditation comes in very useful. Ed è qui che la nostra meditazione di Vipassana si rivela molto utile. So for instance, if we have a problem with eating, not so much overeating, but always eating, little snacks throughout the day. Per esempio abbiamo un problema col mangiare, non mangiare troppo, ma mangiare spesso, no? Dei piccoli spuntini per tutta la giornata. Little comforts throughout the day. E sono dei piccoli elementi di conforto, no? Tutto il giorno. So we may think, well, you know, what am I running away from? Allora potremmo cominciare a chiederci, ma da cosa sto scappando? So I might make a very clear decision that I only eat at meal times. Quindi posso, per esempio, prendere la decisione che io mangerò solo all'ora dei pasti. And when that urge comes to open the cupboard, open the fridge, I sit very still. E quando viene questa spinta, questa voglia di aprire l'armadietto o il frigo, allora io mi siedo molto ferma. Sit still, and just like in meditation, I feel that animal. È proprio come nella meditazione io sento quell'animale. Biting away. Che morde. And if I can just sit patiently with that and wait for it to die away, then I get the benefit of my renunciation. E se riesco a stare fermo con questa sensazione, vedere come poi si dissolve, allora io ottengo il beneficio della mia rinuncia. Not only is there the benefit of undoing this habit, this addiction. Quindi non c'è solo il beneficio del disfare questa abitudine, questa dipendenza. But at the point where the desire is completely gone, to remain there for a moment in order to experience the mind which is without desire. Ma quando poi il desiderio si esaurisce, il rimanere con la mente lì per provare proprio questa esperienza della mente senza desiderio. And this is of course an inkling into the contentment of the Nibbanic peace. E questo è una, come dire, un collegamento con l'esperienza della pace del Nibbana. Because Nibbana is described as no desire. Perché Nibbana è descritto come non desiderio. Non desiderio. The other definition of Nibbana that I personally like is unshackled. L'altra definizione del Nibbana che mi piace è senza catene. Without shackles, without chains. Sì, senza catene. Yeah. So all these desires, all these obsessions, all these aversions and fears, they're like chains. Tutte questi desideri, queste ossessioni, queste paure sono come delle catene. And when all the chains go, then we taste what the Buddha says is the essential taste of the Nibbanic experience, which is freedom. E quindi quando ci liberiamo da tutte queste catene, allora riusciamo ad assaporare quello che Buddha chiamava l'esperienza nibbanica, cioè possiamo avere un assaggio del Nibbana. Yeah. So here we have that link between gratitude, generosity and renunciation. Quindi qui c'è il collegamento tra la gratitudine, la generosità e la rinuncia. And you can take this into every part of your lives. E questo lo possiamo far rientrare in ogni parte della nostra vita. Even your work can be offered as a service, from the heart, as a service. Anche il vostro lavoro può essere offerto come un servizio, una cosa che viene dal cuore. Even standing at a bus stop waiting for a bus or waiting in a queue waiting to be served, your exemplary patience is offered as a good example to others. Anche semplice stare in coda, per esempio aspettare l'autobus o aspettare il pasto, può essere offerto come la vostra pazienza, il vostro stare con pazienza in attesa, può essere offerto come un esempio per gli altri. On the more positive side, shall we say, at a slightly more heart level, there is that quality of metta. Invece su un livello un pochino più del cuore c'è quella qualità della metta. Now, tomorrow morning, the session before breakfast, we shall be practicing metta bhavana. Quindi domani mattina, la sessione prima della colazione, noi faremo la pratica di metta bhavana. Metta bhavana. And what we're trying to develop in the meditation of metta is the universal type of love. Quello che cerchiamo di sviluppare attraverso la pratica di metta è l'amore universale. Sometimes you hear it called detached. A volte si sente definire come amore, come staccato, distaccato. Distaccato, sì. Which gives it a sort of cold feeling. Però questo dà un senso di freddezza. But actually all it means is that the attitude of love we have is not determined by the person in front of us. Ma quello che vogliamo dire è che la qualità dell'amore che noi sviluppiamo non è determinato dalla persona che abbiamo di fronte. In other words, whether we like or don't care for the person, we still offer them the same quality of love. Quindi che la persona ci piaccia o non ci interessa, noi comunque gli offriamo la stessa qualità di amore. And so the practice of metta that we'll do tomorrow is to extend a natural love for those who are close to us to all beings in all directions. Quindi la pratica di metta che faremo domattina è proprio quella di offrire questo tipo di amore a quelli vicino a noi e a tutti gli esseri. So in the traditional way of doing it, we always begin by offering metta to ourselves. Quindi nel modo tradizionale di fare questo, noi cominciamo offrendo questo amore a noi stessi. But because people often find that difficult, for one reason or another, I usually put it further down the list. Ma siccome alcune persone questo lo trovano difficile per qualche motivo, allora io di solito lo metto un pochino più in giù nella lista. Sometimes it's because they hate themselves so much that they can't possibly love themselves. A volte perché si odiano talmente tanto che non riescono proprio ad amarsi. And sometimes it's because they think it's being selfish. E altre volte perché loro pensano che sia un'espressione di egoismo. Whereas in fact it's just getting a right attitude towards ourselves. Mentre invece è solo ottenere un atteggiamento giusto nei confronti di noi stessi. In other words, there's a difference between eating to live or living to eat. In altre parole, c'è una differenza tra mangiare per vivere e vivere per mangiare. So we begin with those people or with a person whom we have no bad feelings about and whom we see as a benefactor. Quindi cominciamo con una persona verso la quale non abbiamo nessun cattivo sentimento e che noi vediamo come un benefattore. So here's that connection between gratitude and generosity. Quindi qui c'è il collegamento tra la gratitudine e la generosità. By developing our metta towards them, we contact that feeling in our hearts. E esprimendo metta verso di loro, noi contattiamo quel sentimento nel nostro cuore. Now, sometimes this feeling doesn't arise at all. A volte questo sentimento non sorge neanche. Even though you're saying, may you be well, may you be happy, you feel tremendously depressed. Anche se dite che tu possa stare bene, che tu possa essere felice, ti senti tremendamente depresso. Now, this is really, really important to understand. Even though we may be feeling depressed, we can still offer the intention of goodwill. Questa è una cosa importante da capire, perché anche se noi ci sentiamo depressi, possiamo comunque esprimere questa intenzione di benevolenza. Because these feelings of depression are coming from old conditionings, the desire for somebody's well-being is coming from the heart of wisdom. Perché queste sensazioni di depressione, questa depressione viene da un condizionamento vecchio, mentre invece questa aspirazione viene dalla saggezza del cuore. Il cuore di saggezza. Il cuore di saggezza. As we practice metta, there are unwholesome feelings, one, as it were, puts them to the side. E se sorgono dei sentimenti negativi o non salutari durante la pratica di metta, semplicemente li mettiamo da parte. So we can deal with those at another time. E possiamo occuparci di loro in un momento successivo. And as it were, we make these intentions either above or below or around or through, whichever image works for you, and we keep making that intention the main object of our attention. Quindi noi proiettiamo, diciamo, questa intenzione o sopra o sotto, attraverso, intorno, come meglio preferite, e quello diventa, questa intenzione diventa il nostro oggetto di meditazione. The focus of our attention. Ecco, diventa il punto focale della nostra attenzione. And you may be surprised to find that after a while, actually, these unwholesome feelings actually disappear and before you there begins to develop the heart of goodwill. E scoprirete che questi sentimenti negativi cominciano poi a sparire e si sviluppa questo cuore della benevolenza. And here I would like to link it for you with the seven factors of enlightenment that we've been practicing. E qui vorrei fare un collegamento con i sette fattori dell'illuminazione che è quello che abbiamo praticato. In other words, we can develop the beautiful mind. In altre parole, noi possiamo sviluppare la mente meravigliosa. And it's exactly the same as we have developed the unwholesome mind. Ed è esattamente la stessa cosa di come noi abbiamo sviluppato la mente negativa, non sana. Before I would have said, I'm depressed, I'm so depressed, I am depressed, I am depressed. Prima avrei detto, sono così depresso, quanto sono depresso, sono proprio depresso. So we talk ourselves into these states. E quindi noi in qualche modo induciamo questi stati attraverso la parola. Yeah, and we develop them happily. E li sviluppiamo felicemente. But here we're using the same technique of, you know, repeating a phrase and putting our intention there to develop the beautiful heart. E qui stiamo usando la stessa tecnica, ripetendo una frase, mettendo la nostra intenzione per sviluppare questo cuore meraviglioso. And the four traditional phrases are may this person or whoever, may they be safe. Quindi le quattro frasi tradizionali che si usano sono che questa persona possa essere al sicuro. Now this safety is of course from the outside world, from enemies, from natural disasters, things like that. E quindi questa sicurezza è dal mondo esterno, quindi dai nemici oppure dai disastri naturali, cose di questo genere. And you can also include there, of course, our internal enemies. Ma si può anche comprendere, ovviamente, includere anche i nostri nemici interni. Our kilesa. I nostri kilesa. How do you translate that? Inquinanti mentali. Pollutants. Inquinanti mentali. What a mouthful. Could think of an easier word. Inquinanti mentali. The second one is may you be well. La seconda è che voi possiate stare bene, essere in buona salute. Healthy. In buona salute. Because you're obviously wishing the person not to have any disease or any physical discomfort even. Quindi state augurando alla persona di non avere nessuna malattia o disagio fisico. Don't say to yourself, you know, the body's always going to have pain, it's always going to have sickness, so what's the point of offering them perfect health? Quindi non dite a voi stessi, il corpo avrà sempre qualcosa che non va, ci sarà sempre qualche malattia, che senso ha offrirgli buona salute? Remember that what we are developing is an attitude. Ricordate che quello che stiamo sviluppando è un atteggiamento. And therefore to have some sort, you know, to offer people the greatest wish develops that attitude of the good heart. Quindi augurare alla persona, fare un augurio più alto, sviluppa questa qualità più alta del cuore, il grande cuore. Yeah. The third one, of course, is to be happy. Il terzo, naturalmente, è essere felice. Yeah. And this, of course, we can attain. E questo, naturalmente, possiamo ottenerlo. To be happy by, you know, allowing all these old conditionings to disappear. Per esempio, possiamo essere felici permettendo a tutti questi vecchi condizionamenti di sparire. And of course our happiness is illimitable. E naturalmente la nostra felicità è senza limiti. The four, remember that the Buddha lists four illimitables. Il Buddha elenca quattro cose che non hanno limite. And these are love, compassion, joy, and peace. E queste sono equanimità. Amore, compassione, gioia e pace. Equanimità. And these are illimitable because there are innumerable numbers of beings. E queste sono incommensurabili, forse si dice. Sì. Quattro incommensurabili. perché ci sono incommensurabili, cioè innumerevoli persone, esseri. Mm. So we can say that on the horizontal it's illimitable how many beings we can offer our goodwill to. Quindi possiamo dire che a livello orizzontale è illimitato il numero di esseri a cui possiamo offrire il nostro amore. Mm. But within there is no end to the depth of love that we can develop. Ma anche all'interno di noi non c'è limite alla profondità dell'amore che noi riusciamo a, a sviluppare. Mm. There's no limit. Non c'è limite. Mm. So when we so the practice begins with somebody whom we have a natural affection for, and if possible we don't have any bad feelings towards. Quindi la pratica comincia verso una persona verso la quale abbiamo un naturale affetto, dove non c'è nessuna difficoltà di relazione. And then we move to somebody whom we have a great affection for, which is family and friends. E poi ci spostiamo verso qualcuno verso la quale abbiamo un grande affetto, che può essere tipo famiglia o amici. And then to friends and people at work. E poi agli amici e persone sul lavoro. And then to somebody whom we see but don't know. E poi verso qualcuno che noi vediamo ma non conosciamo. Hmm. And we're still developing the same quality of love that we had before, even for somebody who is neutral to us. E quindi sviluppiamo la stessa qualità dell'amore verso una persona che è neutrale per noi. At this point I like to bring in myself. A questo punto io è qui che io di solito inserisco me stesso. Mm, hopefully by then the fire of love is so great that there can be no dodging it. Quindi si spera che a questo punto il fuoco dell'amore sia così grande che non sia possibile evitarlo. And then once we've established that within ourselves, this glowing warmth, we can, as it were, slide in from the side somebody who is difficult. E poi quando c'è questo amore, questo calore, questa luce immensa di amore dentro di noi, per noi stessi, allora possiamo in qualche modo infilare da un lato le persone che non ci piacciono tanto. Yeah. Then, once we've done that, we can begin to radiate it out in a more general way. Poi possiamo cominciare a irradiarlo in un modo più generale. So first of all to each other in this room, then to the district, then to Italy, then to Europe, and finally to all to people on earth. Quindi si parte dalle persone intorno a noi nella stanza, poi in questa zona, questo distretto, poi in Italia, poi in Europa e infine in tutto il mondo. And then finally we end with all beings in all directions, and here we will use that chant Sabbe Satta Sukhita Hontu. E poi passiamo a tutti gli esseri in tutte le direzioni, ed è qui che poi cantiamo quel Sabbe Satta Sukhita Hontu. Mm. And we'll do it in the six directions, all beings before us, behind us, left, right, below and above. E lo facciamo in tutte le sei direzioni, quindi davanti, dietro, a destra, a sinistra, sopra e sotto. Mm. And then all beings in all directions three times. E poi tutti gli esseri nelle tre direzioni, in tutte le direzioni tre volte. Now you can see that this you can take into daily life, especially at those times when you're not doing anything, but you may be with people. Vedete che questo lo potete portare poi nella vostra vita quotidiana, soprattutto quando non state facendo nulla, ma siete con delle persone. Mm. When you're on a bus, you can offer your loving kindness to all the miserable people around you. Quando siete su un autobus, potete offrire la vostra gentilezza amorevole a tutte le persone tristi intorno a voi. Mm. Before you go to work, you can bring your colleagues to mind, you see, so that when you enter work, you enter with that heart of goodwill. Quando state andando al lavoro potete portare alla vostra mente i vostri colleghi, in modo che quando cominciate a lavorare potete trasmettere questo sentimento di benevolenza. Mm. If you think of how many times in the day you're not actually doing anything, maybe because you're going from here to there. Pensate a quante occasioni nella giornata in cui non state facendo assolutamente nulla, forse perché state andando da qui a lì. Upstairs and downstairs. Sopra, il piano di sopra, il piano di sopra. And all those times you can easily bring up this quality of love and use that time just to develop the good heart. E tutte le volte potete far sorgere questo sentimento di amore per sviluppare il grande cuore. And so finally, I've been talking too much. So finally, at the end of the exercise, I do something to increase our determination. E alla fine dell'esercizio faccio qualcosa per aumentare la nostra determinazione. I ask you to think of a trait in your character which is unwholesome. Vi chiedo di pensare a un tratto del vostro carattere che voi ritenete non buono. And to go through these four contemplations. E quindi poi praticamente passare attraverso queste quattro contemplazioni. I can, I am able to not to fall into that temptation. Io sono in grado di non cadere in quella tentazione. I ought to, for my own benefit and the benefit of others. Io dovrei farlo per il beneficio mio e degli altri. So this is a moral responsibility. Quindi questa è una responsabilità morale. I want to. Io voglio. And sometimes the heart doesn't want, so you have to encourage yourself to want to get rid of this habit. Perché certe volte il cuore non vuole farlo, quindi voi dovete incoraggiare voi stessi a quindi sbarazzarvi di questo problema. And then the will, I will, when the occasion arises, when the temptation arises, I will not fall into that temptation. E poi l'atto di volontà, cioè io lo farò, cioè io quando capita l'occasione io non cadrò alla tentazione, non cederò alla tentazione. And in the same way to bring up a virtue that we want to develop. E allo stesso modo, allora poi facciamo sorgere una virtù che vogliamo sviluppare. I can develop it. Io posso svilupparla. I ought to for my own benefit and the benefit of others. Io dovrei per il beneficio mio e degli altri. I want to. Io voglio. And when the occasion arises, I will. E quando sorge l'occasione, io lo farò. And then I shall end the exercise with just a general metta. E poi finirò questo esercizio con la meta generale. Good. I think that's enough for tonight. So you might just want to sit silently just for a minute and just let whatever thoughts arise. Quindi per la sera basta potete sedervi forse per qualche minuto e lasciare sorgere qualsiasi pensiero che deve sorgere.